fatto che sia un giornalista, che secondo me fa parte anche un giornalista, i giornalisti, i documentatori, fanno anche loro parte di una determinata casta, che è quella la nostra casta. Dei giudicanti, secondo me dovrebbe essere molto più riverente rispetto a un'altra casta molto più importante, che è quella degli elettori, perché io non sono entrato. Ma guardi che gli elettori, io temo che siano più dalla nostra parte, non so, Sergio Rizzo, sei parte? No, no, ma la tengo su Simonetti, siamo nella casta dei giudicanti, non lo so. La vera casta sono da tenere in riferimento, sono i cittadini. Ma i cittadini, guardi che i cittadini temo che mi hanno votato, io non sono andato con il mitra nei bar e dire dovete votare, fare Sergio, sentiamo. No, ma io non capisco. Prima si dice che la legge elettorale praticamente non c'è più legame con gli elettori, dopodiché, cioè, qual è il discorso degli elettori? Francamente non ho capito. No, dice che siccome l'hanno votato, dice Simonetti, non ma è che ha puntato votato, la pistola alla testa. Lui stesso riconosce che sostanzialmente non c'è legame con gli elettori. Cioè, potrebbe essere Simonetti o qualunque altro. In provincia no, forse in provincia no. In provincia allora facesse il presidente della provincia, voglio dire. Se, diciamo, se il punto è il rapporto con l'elettorato, e giustamente Simonetti ci tiene tanto a questo, allora diciamo mantenesse l'incarico che gli consente un rapporto diretto con gli elettori. Dopodiché viene a criticare me perché faccio parte di quale casta, non ho capito. Cioè, non lo so, la casta dei giudicanti. In Italia c'è ancora libertà di espressione. Grazie a Dio, non so. No, ma Simonetti, la questione della casta dei giudicanti, non l'ho capito. Cioè, perché scriviamo, perché quindi giudicanti no, per quello. No, io non mi permetto di giudicare. Voglio dire che sembra che ci sia tutta l'Italia contro i doppi incarichi quando io sono stato votato e sarà mia premura alla provincia e del partito che mi esprime capire se la posizione di doppio incarico sarà eletta positivamente o meno dai cittadini. Però lei è stato votato alla provincia, ma è stato nominato come tutti in Parlamento, cioè nominato.